Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Benvenuti all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan per una società cruelty free, una trasmissione amica della non violenza, arrivata alla puntata numero 418. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Oggi parleremo di scimmie, di sperimentazione scientifica sugli animali, parleremo di etica, parleremo di caccia, ma non mancheranno né musica né buona cucina. Cominciamo esprimendo la nostra solidarietà e anche la nostra ammirazione per quei 50 nostri fratelli, dei babbuini, secondo le catalogazioni di specie, che per alcune ore sono riusciti a fuggire dalle gabbie nelle quali erano imprigionate nello zoo di Vincennes a Parigi. L'allarme, che è finito su tutti i giornali internazionali, era stato dato quando un inserviente si è trovato davanti uno dei babbuini nel corridoio di una delle strutture di servizio. In breve si è capito che era in corso una grande fuga, rimasta in realtà limitata al perimetro dello zoo e senza che i babbuini potessero raggiungere le aree frequentate dalle persone che visitano quelle prigioni che siamo abituati a denominare zoo. La struttura è stata immediatamente chiusa ed è partita l'operazione di recupero dei fuggitivi, con decine di agenti impegnati insieme con tutto il personale di servizio. Per la caccia agli evasi sono stati mobilitati anche dei tiratori scelti per l'eventuale uso di siringhe con sostanze sedative. Alla fine, l'operazione di polizia è riuscita a portare a termine il suo compito e gli ultimi fuggitivi, due femmine e un cucciolo, sono stati presi di notte, dopo poco più di 24 ore dalla fuga. Comunque sia, questa vicenda testimonia ancora una volta quanto l'ansia di libertà e il desiderio di una vita autonoma senza costrizioni siano proprie di qualunque essere vivente e quanto gli zoo non siano altro che delle anacronistiche prigioni. Quando tutte le città si saranno liberate di queste terribili strutture, potremo dire di aver compiuto un passo di civiltà. Parliamo ancora di primati per una notizia che ha suscitato scandalo in Germania e che è comparsa su tutti i media internazionali. In un laboratorio scientifico negli Stati Uniti, le maggiori case automobilistiche tedesche hanno condotto esperimenti su una decina di scimmie giavanesi per testare la nocività dei gas di scarico delle loro automobili. L'esperimento è stato condotto nel 2015, ma solo ora se ne è avuta notizia. Test analoghi, si è scoperto, sono stati condotti anche su esseri umani. In questo caso si tratterebbe, secondo le cronache, di volontari, ma nessuno ha specificato ancora a quali condizioni queste persone abbiano accettato di sottoporsi ai test, se siano state pagate e quanto, che tipo di informazioni avessero, quale fosse la loro condizione sociale e patrimoniale. Il grande clamore suscitato dalla notizia ha spinto le tre case automobilistiche chiamate in causa, Volkswagen, BMW e Daimler, a prendere le distanze dai test. Ed è intervenuta anche la prima ministra Angela Merkel per dire: questi test sugli animali e perfino sulle persone non trovano alcuna giustificazione sul piano etico. L'indignazione di tante persone è assolutamente comprensibile. In realtà sappiamo bene che la scienza ufficiale legittima e sostiene da lungo tempo simili esperimenti. Sia primati non umani che esseri umani hanno subito nel tempo numerosi test. Gli animali naturalmente non hanno avuto possibilità di scegliere o di sottrarsi, mentre a proposito degli umani si sostiene generalmente che si tratta di volontari. Anche se non sempre è stato così, esiste nella storia della sperimentazione scientifica anche un'ampia casistica su sperimentazioni compiute all'insaputa delle cavie umane. In ogni caso viene da domandarsi se faccia davvero differenza ciò che gli sperimentatori chiamano consenso da parte dei cosiddetti volontari. L'impressione è che finché non ci saranno sperimentatori disposti a vestire i panni dei volontari in esperimenti del genere, sia difficile accettare queste distinzioni. L'impressione è che la scienza sperimentale sia rimasta ancorata a schemi anacronistici e che non riesca a liberarsi dal peso della sua stessa tradizione. Forse è un'iniezione di modestia, un'incursione fuori da quell'insieme di pregiudizi che legittima la sopraffazione sugli individui sottoposti agli esperimenti, sarebbe di giovamento per tutti gli scienziati e sarebbe anche la premessa per un rinnovamento della morale scientifica. Come suggerisce fra le righe la stessa Angela Merkel, quando si tratta di infliggere a qualcuno un esperimento con l'uso di sostanze tossiche, la questione etica non è più un dettaglio e anzi, probabilmente, è la sostanza del tutto. Parliamo ancora di scimmie per commentare un'altra notizia riguardante la sperimentazione scientifica compiuta a danno di primati. Stavolta andiamo in Cina, a Shanghai, dove è stata portata a termine la prima clonazione di primati non umani. Zhong Zhong e Hua Hua sono i primi due individui concepiti in laboratorio attraverso una procedura simile a quella utilizzata a suo tempo per la pecora Dolly. La clonazione delle scimmie, secondo alcuni scienziati, potrebbe in futuro fornire materiale a buon mercato per le sperimentazioni in campo medico e genetico, semplificando le procedure canoniche della sperimentazione sugli animali e in particolare sui primati. Abbiamo chiesto a Luigi Lombardi Vallauri, filosofo del diritto e curatore con Luciana Castignone del volume sulla questione animale nell'ambito del trattato di biodiritto curato da Stefano Rodotà e Paolo Zatti, di commentare questa notizia che arriva dalla Cina. Io sono stato tra i precursori italiani della bioetica, mi occupavo di clonazione già nel 1984, cioè 12 anni prima della pecora Dolly e 15 prima del toro Galileo, e discutevo naturalmente la clonazione umana, dichiarandola, da cattolico che insegnava all'Università Cattolica di Milano, verosimilmente lecita, purché ci fosse rispetto del clone, del figlio. Poi è venuta una ondata di esecrazioni senza uguali. La clonazione era peggio di tutti i delitti dell'umanità. Allora io nel 2000, a un congresso internazionale qui a Firenze, ho fatto un articolo divertentissimo, non so come faceva essere così divertente, sulla pochezza degli argomenti contro la clonazione. Pierino chiedeva: papà, ma si può far nascere un gemello? No, e perché? Perché gemello è una cosa terribile. Ma no, papà, non lo è, allora che male c'è a far nascere un gemello? E andava avanti così. L'ondata di esecrazioni culmina nel 2004 nella famosa, anzi famigerata, legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita. Il penale previsto erano 20 anni come per un omicidio grave. Allora, mio parere, passando dalla clonazione umana a quella delle scimmiette, se non è una minaccia grave all'umanità clonare un essere umano, non vedo minacce alla macachità nel clonare macachi, come non lo è farli procreare con la copula tradizionale. Certo, la clonazione non giova alla vita sessuale, che però potrebbe svolgersi indipendentemente dalla procreazione. Possono benissimo riprodursi anche per clonazione e fare tanto sesso i macachi. Il problema non è la clonazione, è clonarli per farne cosa, per quale destino. Se è per ottenere modelli animali, è solo un caso particolare dell'etica della vivisezione e sperimentazione animale, su cui sono già intervenuto criticamente. Scientificamente forse c'è qualcosa di nuovo, ma comunque non eccezionale. Eticamente niente di nuovo. Gli animali, almeno quelli selvatici, tirano un sospiro di sollievo. Anche quest'anno la famigerata stagione venatoria è finita. Con il 31 gennaio si è chiuso così un periodo cupo per cinghiali, caprioli, uccelli di ogni tipo. Un bilancio che non può che essere necessariamente negativo, perché si parla sempre di caccia, di spari, di morti, che ancora una volta non hanno risparmiato nemmeno gli animali umani, vittime tra le vittime di questa pratica cruenta che c'è chi si ostina ancora a chiamare sport. A Brescia, provincia tristemente in prima linea per la presenza di cacciatori, domenica 28 gennaio si è tenuto un flash mob organizzato dalla LAC e dalla LAV proprio per sensibilizzare su questo tragico risvolto. All'ingresso del castello della città, sotto gli occhi di turisti e famiglie a passeggio, gli attivisti hanno simulato quel massacro causato da ogni singolo sparo. '21 ottobre. Christine Kosher, ciclista di Verona, viene impallinata da un cacciatore durante una sgambata con altri atleti. L'autore dello sparo la confusa per una lepre. Nessuna specie è al sicuro durante la caccia, neppure quella umana. Nessuna specie è al sicuro durante la caccia, neppure quella umana. Nessuna specie è al sicuro durante la caccia. Nessuna specie è al sicuro durante la caccia, neppure quella umana. Sono con Katia Impellittiere, che è la responsabile LAC dell'abolizione caccia di Brescia. Brescia, come saprete, è la capitale della caccia in Italia, è la provincia con il più alto numero dei cacciatori. E come LAC avevamo piacere che quest'anno la chiusura della stagione venatoria fosse, tra virgolette, festeggiata proprio a Brescia. Lo scopo di questo flash mob di oggi qual era? È quello di chiamare l'attenzione ancora una volta sulle vittime, che non sono solo gli animali, non è solo l'ambiente. Si pensi che solo in un anno spargono i cacciatori 10.000 tonnellate di piombo, ma sono anche le vittime umane. Quindi solo fino a dicembre del 2017 si sono contati 25 morti e 58 feriti. Quindi vediamo che c'è ormai una rappresentanza sempre più esigua di persone che possono imbracciare un fucile. Stiamo parlando nell'ordine di 580.000 persone che possono sparare indisturbati nei luoghi frequentati da sportive, famiglie a passeggio, escursionisti. C'è un articolo del codice civile, l'842, che permette a questi uomini armati di invadere i terreni privati, sparando e uccidendo anche contro la volontà del proprietario o del conduttore del fondo. Come LAC a Brescia, noi ogni stagione venatoria, soprattutto in ottobre, riceviamo veramente decine e decine di telefonate, soprattutto da bed and breakfast, agriturismi, strutture turistiche, perché i cacciatori sparano. Quindi noi diamo anche un aiuto a chi vuole denunciare questa situazione. Ogni anno diventa sempre più palese come la caccia sia un'attività insostenibile da tutti i punti di vista. Nessuna specie è sicura durante la caccia, neppure quella umana. Roberta Marino, inviata a Brescia per Restiamo Animali. La musica di oggi è dedicata interamente alle scimmie nelle sue diverse variazioni e ibridazioni. E quindi avete ascoltato gli Arctic Monkeys, ma anche Placebo. Siamo tornati indietro nel tempo con i Pixies, con uno dei brani contenuti in un album mitico come Dut Light. Ma il brano che ho scelto parla di scimmia, ma intesa come istinto della gelosia. È un classico del rock di Peter Gabriel di tanto, tanto, tanto, tanto tempo fa, ed è appunto Shut the Monkey. E aboliamo rabbia e gelosia. Buon ascolto. Uno dei punti fermi di Restiamo Animali è lo spazio dedicato alla buona cucina, nella convinzione che una scelta alimentare non violenta debba e possa sposarsi con il gusto e la qualità del cibo. La ricetta della settimana di Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, è ispirata al mondo dei primati non umani. Sentiamo. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Tema di primati, la ricetta di oggi ha fra i suoi ingredienti quelli che comunemente si abbinano alle nostre amiche scimmie, cioè banane e arachidi, ma questa volta ve le presento sotto forma di granulato. Qualcuno mi rimprovererà del fatto che questa non è la più adatta delle stagioni, ma veramente vogliamo disquisire sul fatto che esista un momento adatto ad un gelato che non sia sempre? E quindi bando alle ciance, ecco qua la ricetta del granulato di banane e arachidi salate. Gli ingredienti per 4 persone sono 2 banane mature, un cucchiaino di malto di orzo, della vaniglia, un cucchiaio di granella di arachidi tostate salate, 100 g di cioccolato fondente. Bucciate le banane e tagliatele a pezzetti e lasciatele in freezer per almeno un'ora. A questo punto mettete le banane nel bicchiere del mixer assieme al malto d'orzo e alla vaniglia. Frullate il tutto fino ad ottenere una bella crema liscia e densa. Riempite degli appositi stampi per gelato oppure dei coppa pasta, inserite lo stecco e fate riposare in freezer per circa 3 ore. Trascorso il tempo necessario, fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente. Inzuppate metà del gelato nel cioccolato e passatelo direttamente nella granella di arachidi. Quindi nuovamente in freezer fino al momento di servirli ai vostri ospiti. Swear I'm gone.